Letture di Radio 24. Nei ricordi di infanzia dello scrittore Aurelio Picca c'è un presepe povero con le montagne che ogni mattina si sfaldano e diventano colline, mentre in quello dei vicini di casa i monti sono più belli delle Dolomiti. Nella mia casa grande e tutta rotta, quando il patrigno morì sul letto di ospedale in 3 secondi, la carta per le montagne del presepe non la cartoggiavo per renderla rocciosa e modellarla finché potessi adagiarci sopra paeselli e greggi e pastori. Mentre a fondo valle poggiavo schegge di specchio per fare un lago, dove a 10 centimetri c'erano botteghe di fabbri e forni, dai quali però non si odorava il profumo del pane e dei dolci. Le montagne, come tute mimetiche dei soldati e soldatini di latta, le stendevo al pari del cielo. Veniva fuori un paesaggio piatto e verticale che comunque durante la notte, anche se non si trasformava in montano, veniva talmente manipolato dai topi della soffitta che la carta zebrata e maculata al mattino rassomigliava a una collinetta deturpata e bucherellata da una ruspa invisibile. I topi, identici a predoni, si lanciavano sul presepe e lo strappavano e seviziavano. Sbranavano pecore e pastori, si infilavano nella mangiatoia e facevano rimbalzare la culla del bambino chissà quante e quante volte, così che Gesù lo ritrovavo scaraventato tra gli scarponi che la mamma avrebbe dovuto consegnare al ciabattino per risuolarli. Ormai lo sapevo, era come un giuramento del destino. Il mio presepe non sarebbe mai stato bello e identico a un presepe vero, come quello che avevo visto 2 anni prima nella casa dentro un palazzone quadrato senza tetto, dal quale in estate, di domenica, spiombavano dalle finestre lenzuola appena lavate. 6 mesi prima di Natale vi trovai una bambina alta e magra che giocava con una bamboletta che io avrei voluto per me, ma ero talmente timido al suo cospetto che riuscii a malapena ad alzarle gli occhi al mento, una volta sola. Figuriamoci se avevo il coraggio di chiederle di farmi giocare con la bambolina. Insomma, poi trascorsero 6 mesi e arrivò Natale e noi tornammo in quella casa. Fu la prima e ultima volta in cui il mondo si trasformò in oro. La bambina, sul corridoio, aveva montato un albero di Natale alto, occhio e croce, 1,60 metri. In cima aveva un cardinale puntuto come il gladio con il quale giocavo dopo aver visto al cinema Borgia, un film sugli antichi romani. Ma il cardinale, a differenza della spada, non era di plastica, bensì di materia scintillante e prezioso, così tempestato di smeraldi e zaffiri. Sui rami pendevano palle, cucù, ballerine, scarpine e fatine. Ma il mondo straordinario era il presepe che circondava l'albero. Perfetto! Andava oltre il mondo per fare del mondo una roba dolce, dove ogni cosa era al posto giusto e le montagne bellissime, più delle Dolomiti. Le montagne non si dovevano scalare. Le montagne erano 2 braccia e 2 mani che tenevano in grembo lucine e fiumicelli e paesi e grotte e fuochi. Quello era il mondo che avrei voluto abitare, con il bambino meraviglioso, silenzioso, là nella grotta. Lui sì che aveva un babbo e una mamma, e anche una sorellina alta e magra che non riuscì neppure a Natale a baciare sulla guancia. Avete ascoltato la lettura del racconto di Aurelio Picca, Il mio presepe romano, tratto dalla raccolta Natale sotto il cupolone, scrittori romani si raccontano. Interlinea editore, 96 pagine, 12 euro. Letture di Radio 24. Quando Charlie Chaplin morì nel giorno di Natale del 1977, molti pensarono che la coincidenza avesse un significato speciale. Eppure Chaplin il Natale lo odiava, perché gli ricordava i momenti della sua infanzia in cui la povertà della sua famiglia era particolarmente sentita, come ha ricordato nei giorni scorsi la figlia Geraldine, in occasione di un incontro al Festival del Cinema di Roma. Mio Mio padre odiava il Natale, sostanzialmente lo deprimeva, perché gli faceva venire in mente ricordi cui non era affezionato. Ci diceva sempre, fino allo sfinimento, che quando era piccolo e povero, quel che riceveva a Natale era solo un'arancia. Così succedeva che cercasse sempre di rovinarci la festa. Alla fine ci riuscì. Morì proprio la mattina di Natale. Geraldine Chaplin, la prima figlia di Chaplin e di Una O'Neill, racconta tutto questo con un certo brio e poi condisce l'aneddoto con una risata. E fu proprio un 25 di dicembre, il giorno in cui Chaplin, l'uomo che a un certo punto era diventato più famoso di Gesù, se ne andò. Era ateo, non era mai stato battezzato e odiava il Natale. In compenso c'era mia madre che faceva l'albero, addobbava casa, comprava i regali, tantissimi, e quei giorni erano indimenticabilmente belli. Alla faccia di mio padre, che ha sempre rifiutato di celebrare questo aspetto commerciale delle feste. Sarà destino che il ricordo più struggente di suo padre si componga nella scenografia di una scena natalizia, una sorta di presepe pagano. La prima memoria che ho di lui risale a quando avevo 8 anni. Lui arrivò mentre stavo dormendo e mi portò fuori a vedere la neve. Mi disse: «Guarda, c'è la neve». Eravamo in California. Ricordo il silenzio della neve e il profumo di mio padre, le sue braccia che poi mi rimisero a letto. Il giorno dopo, quando mi alzai, la neve non c'era più. Mi sono chiesta a lungo se fosse stato solo un sogno, ma ancora ne sento l'odore. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Elena Martelli «Mio padre ci rovinava la festa», da Venerdì di Repubblica del 12 dicembre. La vigilia di Natale del 1944, mentre si trova prigioniero in un campo di concentramento, Giovannino Guareschi, l'autore della saga di Don Camillo, legge ai compagni di prigione una favola di Natale, che gli è stata ispirata nei giorni precedenti da quelle che lui chiama le sue 3 muse: fame, freddo e nostalgia. Si racconta di un viaggio di fantasia, quello che suo figlio Albertino compie sulle ali della poesia per andare a trovare suo padre nel lager nazista. C'era una volta un prigioniero. No, c'era una volta un bambino. Meglio ancora, c'era una volta una poesia. Anzi, facciamo così. C'era una volta un bambino che aveva il papà prigioniero. E la poesia, direte voi, cosa c'entra? La poesia c'entra perché il bambino l'aveva imparata a memoria per recitarla al suo papà, la sera di Natale. Ma come abbiamo spiegato, il papà del bambino era prigioniero in un paese lontano lontano. Stando così le cose, arrivò la sera della vigilia e la famigliola si trovò radunata attorno al desco, ma una sedia rimase vuota e tutti guardavano pensierosi quel posto vuoto e tutto era muto e immobile nella stanza perché anche l'orologio aveva interrotto il suo ticchettare e la fiamma era ferma, come gelata nel camino. Allora il bambino, chissà perché, si levò ritto sul suo sgabello davanti alla sedia vuota e recitò ad alta voce la poesia di Natale. Davanti alla sedia vuota del papà e, com'ebbe finito, la finestra si spalancò ed entrò una folata di vento e la poesia aperse le ali e volò via col vento. «Dove vuoi che ti porti?» le domandò il vento. «Portami nel paese dove è adesso il papà del mio bambino», disse la poesia. «Stai fresca», rispose il vento, «perché prendano anche me e mi mandino al lavoro obbligatorio a far girare le pale dei loro mulini a vento. Niente da fare, scendi». Ma la poesia tanto pregò che il vento acconsentì a portarla almeno alla frontiera. E cammina, cammina, cammina. Nella notte di pece finalmente arrivarono al confine e il vento fermò il motore e la poesia scese e si avviò a piedi verso la siepe che divideva i 2 paesi. Faceva tanto freddo che la povera poesiola aveva tutte le rime gelate e non riusciva neppure a spiccare il volo. «Dove vai?» le chiese un vecchio, il quale, con uno stoppino legato in cima a una pertica, cercava invano d'accendere qualche stellina nel cielo nero. «Dove vai?» «Al campo di concentramento», rispose la poesia senza fermarsi. «Oimè!» sospirò il vecchio. «Internano anche la poesia adesso. Cosa ci resterà più?» La poesia continuò zampettando il suo cammino e finalmente arrivò al confine. Ma, appena attraversata la siepe, una rete le piombò addosso ed ecco la prigioniera. sghignazzò un omaccio vestito di ferro, avvicinandosi con una lanterna. «Dove vai? Chi sei? Cosa porti scritto sulle ali? Spionaggio?» E la poesia a spiegargli chi fosse e dove andava, e quello a insistere sospettoso. Alla fine parve convinto e, inforcati gli occhiali, cominciò a leggere i versi scritti sulle ali. Poi, afferrato un grosso timbro, le timbrò le ali e disse che poteva entrare. La poesia si mise a piangere. «E come faccio a entrare così, con tutte queste cancellature? Io non sono più una poesia. O così o niente», disse l'omaccione mostrandole un foglio. «Guarda qui, il regolamento parla chiaro». «Non ti rattristare, piccolina», le disse un vecchio dalla lunghissima barba bianca che stava seduto su un sasso, vicino alla siepe di confine. «Non ti rattristare se non t'hanno lasciata entrare. Figurati che non lasciano entrare neanche me, che ho ingresso libero nei paesi più importanti del mondo, e sono anni che aspetto qui fuori». «E chi sei tu?» domandò la poesia. «Sono il buon senso», rispose il vecchio. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Giovannino Guareschi, La favola di Natale, Rizzoli, 92 pagine, venduto in abbinamento al Corriere della Sera. Nel giorno di Natale di 100 anni fa, un soldato tedesco impegnato sul fronte occidentale a Neuve-Chapelle propose agli inglesi una tregua di un giorno, giusto il tempo per scambiarsi gli auguri prima di tornare a sparare. In una lettera resa nota solo poche settimane fa, il generale inglese Walter Congreve descrive alla moglie tutti i particolari di questo breve momento di pace. L'ufficiale aveva ascoltato l'invito del tedesco e decise di lasciar fare. Uno dei suoi attendenti salì la scaletta di legno verso la terra di nessuno e così fece l'altro. Si incontrarono a metà strada. Si strinsero la mano e si scambiarono un po' di alcol e tabacco. Tutti gli inglesi uscirono dalla trincea, anche molti ufficiali, e così fecero i nemici dall'altra parte. «Io non andai», scrive Congreve, «perché pensavo che i tedeschi, vedendo un generale, non avrebbero resistito a ucciderlo o catturarlo. I soldati si scambiavano souvenir come bottoni e cappelli, si offrivano reciprocamente da bere, parlavano della vita in trincea, terribile da ambo le parti. Al mio aiutante di campo, racconta il generale, hanno presentato il miglior tiratore dell'esercito tedesco, uno che dicevano avesse ucciso più inglesi di una dozzina di soldati messi assieme. Avrà avuto sì e no 18 anni». E aggiunge, con la freddezza del soldato di professione, «Ora sappiamo dov'è la sua postazione e spero che i miei domani lo abbattano». La tregua di Natale andò avanti a fasi alterne per diverso tempo. Un giorno si sparano, continua Congreve, il giorno dopo giocano a calcio e il giorno dopo si sparano ancora. La lettera è stata consegnata nel 1960 dagli eredi al Council di Staffordshire County, ma è stata aperta solo poche settimane fa. In molte trincee la tregua cominciò per iniziativa dei tedeschi che cantavano canzoni di Natale e accendevano candele sugli alberi. Gli inglesi rispondevano intonando l'antica canzone scozzese Auld Lang Syne, un brano così famoso che persino i prussiani e i wurtembergiani lo conoscevano e lo cantavano in risposta. Secondo lo storico Tony Ashworth, la tregua di Natale è stata solo la conseguenza del vivi e lascia vivere, un atteggiamento molto diffuso nelle trincee all'inizio della guerra. Comunicando in modo misterioso, i soldati avevano ad esempio concordato di non spararsi in alcuni momenti della giornata, quello del tè, del pranzo, delle abluzioni mattutine. Incontrandosi nel giorno di Natale nella terra di nessuno, scoprirono che c'erano più ragioni per stare insieme in allegria che per uccidersi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Vittorio Sabadin, Tregua di Natale nella terra di nessuno, da La Stampa del 10 dicembre. Mattina di Natale. Laura Pariani, scrittrice e giornalista, ricorda i Natali della sua infanzia, con la corsa verso i regali, e li confronta con il momento attuale, con le notizie di violenza e ingiustizia che arrivano dai telegiornali e con le apprensioni per il futuro. Ripenso ai Natali della mia vita, quando ero piccola, l'attesa, la neve. Ripercorro le tante case che ho abitato, i tanti presepi, il rito della candela accesa sulla tavola, i panettoni e le tombole. E rammento però anche certe notti natalizie passate a guardare il cielo sola a soletta. Il tempo ha molte facce diverse e l'orologio raramente segna quello che passa dentro di noi. Parlo del tempo reale della vita. D'altronde molti giorni possono passare in poche ore e viceversa, e il numero degli anni è una scala imprecisa per misurare la vita di una persona. Se mi guardo intorno, ritrovo quanto ho di caro: la pila dei libri letti in questi ultimi mesi, il cavalletto con le tele da dipingere, le care vecchie foto incorniciate. Mi rendo conto che non è poco, tuttavia sento come se non avessi nient'altro che me stessa. Ma possiedo ancora i ricordi di quegli anni lontani. E possiedo anche questo silenzio, quasi di neve che cala proprio adesso, sul paese, come una carezza. Un'ultima sigaretta e un ultimo caffè di Natale con mio marito. Il notiziario televisivo del 25 dicembre racconta immagini di festa mescolandole a scene di guerra, che, come ben diceva Dickens, non basta che sia Natale perché ingiustizia e violenza spariscano. Guarda come si ringhiano l'uno contro l'altro, come si dilaniano. Non si arriverà mai alla pace o anche soltanto alla comprensione di chi ti abita a fianco, dice Nicola sconsolato. Chissà se le nostre nipotine, Anna, Viola e Rita, vedranno tempi migliori. Il mondo troverà mai la buona strada? Di nuovo, come stamattina, influenzata dalla lettura di Dickens, mi domando quanti Natali ancora mi restino. Che, come tutte le date che segnano la fine dell'anno, il Natale fa rinascere in me l'idea della porta nera che mi attende. Il guaio è che ha smesso di essere una pura idea. Se mi guardo allo specchio, vedo occhi intorbidati. Se contemplo le mie mani, vi scorgo le macchie dell'età. Prima mi bastava osservarle perché l'universo mi porgesse i suoi segreti. Ora sono deboli. A volte sembrano non obbedirmi. Non vado ancora a letto. Resto in poltrona davanti alla finestra. Gli occhi non hanno voglia di chiudersi. Come sta correndo il tempo? Io l'ho percepito oggi nella consistenza fredda della luce di dicembre, con l'impressione di muovermi dentro qualcosa di solenne, di sentire un avvio di quella che io sono solita chiamare musica della memoria, coi suona suona dell'infanzia, i discorsi dei cavalli parlanti del c'era una volta e una volta non c'era, le invocazioni dei pellegrini che qui salivano un tempo a indulgenziarsi, chiedendo una tregua alle loro brevi vite di malaventura. Sento l'eco delle loro voci, vedo i loro volti lontani che spalancano le bocche a raccontare, che paiono appellarsi a me, perché non dimentichi le loro storie. Riprendo tra le mani il vecchio Dickens. Sempre più spesso le parole degli scrittori che amo mi danno consolazione. Che a ogni rilettura la mia mente si amplia, si dilata, quasi che io e le storie che il Natale porta con sé facessimo parte di un disegno più vasto, di un gran teatro del mondo, e il tempo danzasse. Ecco, sì, per un attimo posso considerare senza paura quello che della vita mi rimane. Ci sono due o tre immagini, due o tre ricordi che si sono fatti duraturi nella mia memoria, altri che hanno cercato eternità sotto il travestimento delle pagine che ho scritto. Il resto si è perso, meglio così. Ecco, stanotte rimarrò qui, in poltrona, mi coprirò le gambe con questo scialle, poggerò la testa all'indietro, chiuderò gli occhi e mi lascerò cullare dai fantasmi che vagano nella notte, quando dietro il bosco del Sacro Monte spunta la prima luna d'inverno. Penseranno che stia dormendo, e chi lo sa, magari potrò volare via con lo spirito di qualche altro Natale. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Laura Pariani, Il nascimento di Tony Niesus. Interlinea Editore, 96 pagine, 10 euro.